I like that. Come vi avevamo già annunciato, sabato scorso si è tenuto davanti alla sede del Consiglio regionale a Firenze il presidio indetto dalla Lida per protestare contro il finanziamento di 23 milioni di euro alla Novartis. Vi ricordiamo che tale stanziamento ha come scopo uno studio sui vaccini contro le principali malattie che colpiscono il terzo mondo, senza però alcun riguardo ai metodi sperimentali usati per validare tale studio. Il presidio è stato un successo. Una cinquantina di persone da tutta la Toscana ha stazionato davanti al palazzo incurante della pioggia e della folla intenta alle spese natalizie e per la maggior parte bardata di pellicce, ed è stato davvero duro, devo confessarlo, concentrarsi solo sul problema Novartis. Molti gli striscioni e le voci, tra cui svettava quella di Maria Romoli, vicepresidente Lida, che ha urlato a Rossi tutte le nostre ragioni. Tra tanti attivisti e manifestanti al presidio ha partecipato anche Mauro Romanelli, che oltre a essere consigliere regionale di SEL è anche un convinto attivista. Mauro il giorno prima del presidio ha incontrato Luigi Marroni, assessore regionale alla salute, e da questo incontro è venuto fuori che al momento i 23 milioni di euro promessi dalla regione toscana alla Novartis non verranno dati almeno fino al 2014, ma questo banalmente perché al momento i soldi non ci sono. Il presidio ha avuto il merito di far capire a Rossi che una buona fetta di contribuenti non è affatto contenta di come vengono utilizzati i propri soldi. Speriamo che questo, insieme al mail bombing che è stato portato avanti nei mesi precedenti per protestare appunto contro questo finanziamento, sorta un qualche effetto e che si pensi finalmente a finanziare anche metodi alternativi alla sperimentazione animale. Dopo lo stop alla macellazione rituale, l'Olanda, secondo produttore europeo di pellicce di visone, mette al bando gli allevamenti di animali da pelliccia, confermando il proprio primato nella tutela e nella protezione degli altri esseri senzienti. Il percorso avviato dall'associazione animalista olandese Bon Von Dieren è durato 7 anni, fino al voto del Senato di pochi giorni fa. Il divieto olandese diventerà effettivo a partire dal 1 gennaio 2024, concedendo così 10 anni di tempo per smantellare 159 allevamenti di visoni, che ogni anno utilizzano circa 6 milioni di animali. L'Olanda ha avuto il coraggio di sfidare forti interessi economici per dare voce ai propri cittadini, contrari all'uccisione di animali per questo tipo di attività. A questo punto anche l'Italia, con i suoi 10 allevamenti e 150.000 animali da pelliccia uccisi ogni anno per la produzione di pellicci, dovrebbe provvedere con una normativa che vieti gli allevamenti, come hanno già fatto Austria, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia, Croazia, Bosnia e Danimarca. La Lega Antivivisezione ricorda che in Parlamento esiste già un progetto di legge che non è stato però mai esaminato. E musica per sostenere l'Italian Horse Protection. L'ex chiesa dei frati Barnabiti sarà la suggestiva sede della mostra organizzata dal 21 al 23 dicembre a Firenze per sostenere il centro di recupero Italian Horse Protection. All'interno della chiesa verranno esposte le opere del maestro Carlo Romiti, che da sempre esprime la sua passione per i cavalli liberi attraverso dipinti realizzati con terre toscane che raccolte e pestate diventano colori naturali. Ad accompagnare i visitatori ci sarà l'elegante sottofondo delle musiche composte da Andrea Cavallari. L'entrata è offerta libera, suggeriti almeno 5 euro e il ricavato andrà interamente devoluto all'associazione Italian Horse Protection, un'associazione che lavora per la tutela degli equini in Italia e che gestisce il primo e finora unico centro di recupero per cavalli sequestrati per maltrattamento a Montaione. L'appuntamento è presso l'ex chiesa dei Barnabiti in via Sant'Agostino 23 dalle ore 11 alle 19.30, dal 21 al 23 dicembre. Notizie, immagini e approfondimenti sul blog restiamoanimali.wordpress.com e vi ricordiamo l'appuntamento di domenica mattina alle 12 per una puntata dedicata in buona parte alla ricorrenza natalizia, ovviamente in chiave rigorosamente cruelty free.